abbiamo bisogno di costituire una sorta di governance politica. Noi crediamo che i due governatori, il governatore Zaia e il governatore Tondo, debbano essere in qualche modo i leader di questa iniziativa dal punto di vista così della promozione politica del progetto. Vogliamo riunire poi su un tavolo diversi attori, quindi gli industriali ovviamente da un lato, le parti politiche, quindi responsabili, assessori ai trasporti e lavori pubblici delle regioni e evidentemente poi i soggetti finanziatori, i possibili finanziatori di questa iniziativa, assieme anche a chi oggi ha già diciamo un coinvolgimento infrastrutturale, per esempio anche le concessionarie autostradali, diciamo altri soggetti che possono diventare dei partner, dei coautore di questa progettualità. L'idea di fondo evidentemente è quella, di fronte a un'opera così importante, a un progetto di portata, come giustamente sottolineavo prima dell'interruzione, particolarmente rilevante, quella di mettere assieme competenze e anche soggetti molto interessati a promuovere questa iniziativa per gli anche del paese, affinché poi si possa progetto non solo quello diciamo infrastrutturale, ma soprattutto in questo caso quello finanziario, che costruisce in questa fase davvero, come dire, un po' la punta di diamante, l'elemento forse più complesso e articolato da concepire e da definire. L'idea di fondo appunto è avviare questo tavolo ristretto di soggetti che possono partecipare alla messa a punto di una di uno schema di lavoro e poi cominciare ad articolare, diciamo, l'interlocuzione con soggetti italiani ma anche stranieri che possono essere interessati a partecipare finanziariamente a questa iniziativa.